Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Romanzi in valigia. Romanzo mettiamo in valigia questa settimana? Magari state partendo per le vacanze e ci state pensando. Beh, allora, se per esempio andate in montagna, il nome è sempre quello, Mauro Corona. Il suo ultimo romanzo si intitola I misteri della montagna, pubblicato da Mondadori. È naturalmente una celebrazione della montagna, un omaggio alla montagna vista in una dimensione quasi magica. E fra i suoi romanzi sembra sicuramente quello più intimo. Sentiamo allora cosa ci ha detto Corona. Forse non è il più intimo, forse sì, perché c'è anche il sasso nella corrente o confessioni ultime, che c'è molto di c'è molto della mia vita, ma questo è stato un esame di coscienza. Avevo scoperto, e non da ora, ma è un qualche anno, che mi stavo inaridendo, nel senso che la montagna era una fuga veloce per poi tornare nella civiltà, nella visibilità, nella gloria, nella fama, e quindi ho detto: cosa devo fare per recuperare le emozioni? E bisogna tornare bambini. E per tornare bambini cosa si fa? Percorso a ritroso, dalla cima sono tornato alla base, e lontano dalla base sono ripartito come un bambino, come quando avevo 6-7 anni che andavo a caccia con mio padre. E ho ripercorso quel sentiero che ormai era intricato di rami, di frasche, era occultato da... Ma io me lo sono pulito e ho rivissuto la mia infanzia, la mia adolescenza, la mia sciagurata gioventù. Ho rivissuto la montagna magica, misteriosa, piena di superstizioni, di riti, di tabù, anche di durezze, perché non perdonavano mica i vecchi, se ti potevi far male ti dicevano non andare di là, se tu ci andavi erano affari tuoi, non ti diceva perché non andare di là. E quindi è stato una specie di testamento, non ho paura a dirlo. Magari vivo anche a lungo, oppure creperò anche, ma è una specie di testamento. Ho voluto rivisitare i luoghi amati, più che tornare bambini, perché il bambino ha questa capacità di illudersi, di sognare, di credere, di stupirsi. Non mi stupivo più, e questo è gravissimo. Mi stupivo, ma momentaneamente, perché poi dovevo andare lì dove... E è stato un percorso all'indietro, non perché non mi interessa più sapere dove vado, come disse Borges in una leggenda di... ma ricordare da dove sono partito. Questo per quello è nato. E sono molto affezionato a questo libro, il più di tutti. In questo viaggio retroso, in questo viaggio emotivo, hai avuto la percezione di provare la stessa emozione di quando eri bambino e la montagna ti appassionava? Cioè sei riuscito anche... Sono riuscitissimo, tanto è vero che non ho tema a dirlo, in qualche passo, per esempio anche l'ultimo, quando sono tornato nella mia vecchia casa dove sono tutto, mi sono venute le lacrime. Mi ho ricordato un episodio di un'aquila che ha ghermito un agnellino, un capretto, e l'eco rimandava le grida disperate di questo. Mi sono commosso più volte a scrivere questo libro. E il vecchio Macedonio Fernandez, maestro di Borio, disse: la cosa più bella che può capitare a un uomo, soprattutto adulto, è di aver sentito quell'altra cosa che lo ha commosso. Io questa volta sono riuscito. In questo libro è come se tu dipingessi un po' dei quadri sulla montagna, sul significato che la montagna ha per te, su come tu la vivi, e paragoni la montagna anche proprio agli esseri umani, nel senso che hanno 5 sensi, certo, le montagne. Ma questo qui è la mia visione, e quel realismo magico tanto odiato da Aldo Busi, che è appartenuto a García Márquez e compagnia bella. È chiaro che se parlo con un geologo, ti dice la montagna, c'è il Giurassico, il Micenese, a me non me ne frega di queste cose, voglio vivere. Una volta ebbi una discussione quasi quasi al limite della rissa con Margherita Hack, si parlava della Luna, grande scienziata, grande astrofisica, grande anche una persona elegante, bella, simpatica, ma si ebbe sto diverbio perché diceva che la Luna è una palla di sabbia. Certo che è una palla di sabbia, ma fatemi vedere la Luna Voglio il lunami che influisca sulle maree, sul taglio dei boschi, sul taglio delle unghie, sulle semine. Insomma, voglio vivere di sogni, ma io non ho avuto nulla che sia corrisposto a realizzare i miei. Ma fatemi sognare, io voglio sognare. Quindi questa montagna mia rivisitata è fatta di sogni, di illusioni, di visioni, e quindi ai cinque sensi. Ma se andiamo nel dettaglio, la montagna mangia, le frane mangiano le case, le valanghe mangiano alpinisti, ecco, il mare, anche il mare si apre e ingoia, tira giù gente, tira giù naufraghi, quei poveri diavoli che vengono con le barche, cioè la montagna tocca. Se noi ci sdraiamo in un prato veniamo anche fastidiosamente perché abbiamo perso la naturalità, cioè, ma se noi stiamo fermi lì, sentiamo fiori che ci toccano, rami che si piegano, la montagna vede. Come mai vede? Ma mi diceva mio nonno che vede, che sente, percepisce se un alpinista va ad ammazzarsi. E come fa? E allora io provocavo mio nonno, dicevo, ma perché allora la montagna, se vede l'alpinista che va a morire, non lo avverte? E mio nonno diceva, e perché io ero un provocatore, ero abbastanza arguto, anche da adolescente, da ragazzino, ma neanche Dio, dice mio nonno, avverte che ti capita l'incidente, la malattia, la morte. E allora io, ancora più bastardo, ma allora la montagna è Dio, gli dicevo, e per provocare. E lui, con una semplicità, questo vecchio di 1,95 m, analfabeta come mia nonna, diceva, certo che la montagna è Dio. Ora, se parliamo con un geologo, ma non serve essere, però fatemi credere che è anche così, perché se ci avvertono di tutto, cosa facciamo? Schiviamo? È come essere immortali, non morire mai, è una noia insostenibile. Hai detto che questo libro è stata anche la volontà di riappropriarti proprio della montagna, di quel sentimento proprio diretto, di quella passione, di quel sentimento che provavi da piccolo, forse certo. Perché ormai sei molto coinvolto anche nel mondo della visibilità. Ecco. Certo, ma questo mi dà un po' fastidio, perché la mia natura non è questa, ma la vanità che percuote, colpisce tutti gli uomini del globo, ma non trovo giustificazioni né scuse. Sono uscito da una vita desolata, fatta di fatiche, di dolore, di botte, di fame, di miseria, e quindi ho voluto riuscire. Però adesso non mi riesce più di fermarmi lì come ha fatto Salinger e dire basta. Sono qui al salone, che io lo chiamo il salone delle vanità, perché un libro non ha bisogno di noi che siamo qui. Io sto facendo un esercizio di vanità a concedere interviste, perché l'umanità né i libri non hanno bisogno delle mie parole. Ecco, se dovessi fare il bravo andrei a fare del volontariato dove hanno la fame, dove hanno la miseria, dove hanno la lebbra, dove stanno male. Quindi qui vengo per un esercizio di vanità, punto. Hai scritto anche che hai scritto questo libro in pace. Sì. Perché gli altri libri invece che cosa ti provoca la scrittura? Per esempio c'è la scrittura mi aiuta a non mettermi una corda attorno al collo, però gli altri libri sono stati più sofferti perché andavo anche nelle cose mie intime, profonde, belle, perché qualcosa di bello ce l'ho ancora, però il bello lo devi a volte occultare per non ferire altre persone, le quali potrebbero danneggiarsi. Noi non possiamo essere felici se non a scapito di altri. Le faccio un esempio: lei ha dei figli, vorrebbe cambiare casa e dire ai suoi figli, che sono adulti, autonomi, tutto quello che vuole, io vado a vivere, non so, a Ortisei oppure a Courmayeur, perché facendo questa cosa lei sarebbe contenta di vivere a Courmayeur, sarebbe dire lì voglio morire in pace. I suoi figli diranno, ah mamma, ma ci lasci, anche se hanno 40-50 anni. Quindi ho fatto fatica, anche perché sono un vigliacco, perché se avessi palle prenderei il tollo per le corna su certe situazioni, ma non ho palle, sono un vigliacco e non ho voglia di far male ad altri, facendo male a me stesso e a chi mi vuol bene. Detto questo, il libro che ha accennato l'ultimo l'ho fatto in pace, è una specie di testamento. Non so quanto vivo, non mi interessa, vorrei vivere un po' a lungo, magari arrivare a 70, quindi mi restano 5 anni, ma l'ho scritto in pace, è una specie di resa dei conti, è una specie di testamento, diceva Walter Flex in un bellissimo libro, Beato colui che senza odio, il libro si intitola Il viandante dei due mondi, Walter Flex, beato colui che senza odio chiude le porte del mondo. Ecco, questo librino per me mi farebbe chiudere, se mai capitasse, le porte del mondo senza odio. Ma mi accorgo che mentre sto dicendo questo sono un po' alterato, quasi arrabbiato, quindi non ho capito molto ancora. Non ha capito perché è arrabbiato? No, mi sento che mi esprimo con un certo astio contro me stesso, contro l'umanità, la società. E quindi devo ricalmarmi e essere più dolce. A volte ci vuole così, qualche momento per ritrovare se stessi, probabilmente. Ma per te la dimensione di trovare se stessi non l'ho mai capito. Chi sono i se stessi? Cioè, trovare se stessi cosa vuol dire? Noi intanto dobbiamo capire chi siamo noi stessi, e nessuno, nemmeno Gesù Cristo, sa chi è, perché viviamo di alternanze, di recite, di apparenze, di travestimenti, e quindi io non so chi sono. Io ho scritto un libro, La storia di neve, dove ci sono omicidi feroci, bestie, io sono anche quello. Quindi io non so chi sono. Quindi ritrovare me stesso non posso, perché non so chi sono il me stesso. Io vorrei trovare un po' di tranquillità e di serenità. Non me stesso, perché non lo troverò mai me stesso, che non so dove è e chi è. Il romanzo da mettere in valigia oggi sarà banale, ma soprattutto se andate in montagna, I misteri della montagna di Mauro Corona, pubblicato da Mondadori. Il cacciatore di libri. Romanzi in valigia. Un tamarro dietro l'angolo voleva incularmi la Vespa. Un tamarro dietro un altro angolo voleva incularmi la Caterina. Ma io ho chiamato Spalmer, lui mi ha risposto dimmi. E io gli ho detto vieni qui che c'è bisogno di te per riprendere me. Attenti cattivissimi perché è arrivato Spalman che spalma la merda in faccia. Aiuto, arriva Spalman che tutti spalmerà. Perché è arrivato Spalman che spalma la merda in faccia. Aiuto, arriva Spalman che tutti spalmerà. Allora, chiariamo subito. Non voglio rubare il mestiere a Nicoletta Carbone, a Cuore Denari, non voglio sicuramente parlare di salute, però è innegabile, l'avete anche un po' capito da questa canzone di Elio e le storie tese, forse di che cosa stiamo parlando, che nella prima parte del 2015 c'è stato un vero e proprio bestseller che è arrivato dalla Germania. Un libro, non è un romanzo, è un libro che si intitola L'intestino felice. L'ha scritto Julia Enders, questa 25enne tedesca, pubblicato in Italia da Sonzogno. Ne parlo così sorridendo perché, beh, insomma, avete capito, si parla di intestino, si parla di rifiuti umani e così via, e lei l'ha fatto in modo così simpatico, così divertente, che in Germania ha venduto 1 milione di copie, e quando è stato pubblicato in Italia è stato quasi sempre ai vertici delle classifiche, quindi veramente un bestseller a livello internazionale, ed è sicuramente un libro che in questo periodo può tornare comodo tenere in valigia, visto che si viaggia molto in questo periodo. Lei, dicevamo, è giovanissima, 25 anni, e è una scienziata, nel senso che segue un dottorato di ricerca presso un istituto di microbiologia e igiene. Ma perché ha deciso di scrivere un intero libro sull'intestino e perché questo grande successo? Gliel'ha chiesto Adriano Palazzolo. Als ich 17 war, habe ich ganz plötzlich eine Hautkrankheit bekommen. Perché quando avevo 17 anni ho sofferto di una dermatite, cioè di una brutta malattia della pelle, e mi sono resa conto che non sapevo nulla del mio corpo, e allora no, sapevo qualcosa di economia, di politica, però sono andata poi a leggermi delle cose sul nostro corpo, e devo dire che la parte del corpo che mi ha interessato subito di più e che mi ha affascinata è stata proprio l'intestino, perché l'intestino è responsabile per tantissimi processi, è quello che regola il peso corporeo, è quello che regola il sistema immunitario, è quello che influisce anche sul nostro umore. Io pensavo che l'intestino servisse solo per andare al gabinetto. Molto spesso nel libro fai riferimento a toccarsi, guardarsi, ispezionarsi. Quanto è importante conoscere a fondo il proprio corpo? Ich denke, das ist heutzutage sehr wichtig, weil wir leben ganz oft. È molto importante perché noi oggigiorno abbiamo sempre la testa che è fuori dal nostro corpo, che è lontana dal nostro corpo, e c'è Facebook, e c'è Twitter, e ci sono tante altre cose che ci tengono sempre con la testa fuori. Invece il nostro corpo ci può dire tante cose, e però a volte viene percepito come un tabù, e invece ci dà un sacco di belle informazioni che sono un grande aiuto, e quindi bisogna in qualche modo sentirlo parlare per interpretarlo. Quali sono alcuni semplici consigli per vivere con un intestino felice? Das erste ist eigentlich, wir sono tre i consigli più importanti. In primis direi che dobbiamo comprenderlo meglio, perché non è che dobbiamo sempre vivere con diarrea o nausea o altri problemi. Se lo conosciamo meglio possiamo gestire molto meglio la nostra vita. Einfach mal umdrehen und mal in der Toilette schauen, was. E poi ogni tanto girarsi a vedere quello che uno ha lasciato come feci nel gabinetto. Poi si può tirare lo sciacquo, però perché in questo modo, se notiamo dei cambiamenti, possiamo poi reagire, prendere provvedimenti. Punkt 3, wenn wir ein bisschen an unsere Mikroben denken. E poi c'è la questione dei nostri microbi, perché noi non li alimentiamo abbastanza bene, non gli diamo da mangiare abbastanza bene, sono importanti. Gli diamo pochi nutrienti, e quando penso ai nutrienti di questo genere non penso al muesli, ma penso piuttosto a delle cose idrosolubili come gli asparagi, come il riso freddo, l'aglio, la cipolla. Knoblauch oder Zwiebel. Molti, quando si parla di questi argomenti, sono molto imbarazzati. A te com'è che viene così naturale parlare di queste cose? Ich glaube, es hilft sehr, dass ich mich nicht schäme. È di grande aiuto che io non abbia imbarazzo effettivamente a parlare di queste tematiche. E bisogna un po' distinguere, perché comunque anche io, anche a me fanno schifo determinate cose, per cui io non toccherei mai delle feci. Però l'imbarazzo svanisce nel momento in cui tu capisci queste interazioni. Ich würde behaupten, das mit fast allem so. Tra le pagine del libro tu hai messo anche dei disegni molto carini, semplici e simpatici che fanno ridere. Perché hai deciso di mettere delle illustrazioni di questo tipo? Die Zeichnungen sind alle von meiner Schwester Jill. Tutte le illustrazioni nel mio libro sono di mia sorella Jill, e mia sorella Jill è specializzata in design scientifico praticamente, perché la nostra nonna ci ha dato una grande lezione di vita. Ha detto che le cose intellettuali non devono sempre essere troppo serie o troppo complesse, ma devono essere semplici, divertenti, perché quando le capisci davvero possono essere semplici e divertenti, e quindi il collegamento è venuto da sé. Einfach für mich ganz klar irgendwie. Dopo il grande successo di questo romanzo, le abitudini intestinali della tua famiglia sono cambiate? Ma diciamo che più che altro hanno sperimentato un pochettino con l'alimentazione, cosa mangiare piuttosto che cosa non mangiare, e a volte hanno fatto anche un po' di sperimentazioni su queste diverse posizioni da assumere quando si è seduti sul zucchino. Ci sono centinaia di volumi che parlano del nostro sistema digerente. Perché secondo te il tuo libro ha avuto questo grande successo? Ich versuche generell keine Tipps zu geben. Es gibt schon wahnsinnig viele Tipps. In prima linea perché io non do consigli, perché libri che danno consigli ce ne sono davvero tanti. Già, fai quello, no, quello non lo fare, fai piuttosto quell'altro. Io invece cerco di spiegare, perché comunque quando tu ottieni un altro tipo di rapporto con il tuo corpo è meglio, è più facile, diventa più simpatica anche quella parte del tuo corpo. Ed è anche il feedback che ho ricevuto, cioè capire meglio il proprio corpo, capire meglio la propria pancia, fa sì che anche l'imbarazzo che avevamo nei confronti di questo organo diminuisce, e questo è stato l'effetto forte, la forza del mio libro. Der, glaube ich, hier eine ganz große Stärke hat. Tu nel libro non dai consigli, però sicuramente ormai chi ti conosce o anche persone nuove che sanno di te ti chiedono qualche consiglio. Tu come reagisci? Ich kann dann immer nur den Hintergrund erklären. Quando mi chiedono queste cose, di solito spiego un pochettino il background. No? Il tutto è basato comunque su fatti scientifici. Quando le persone capiscono che problemi legati al lattosio sono più che altro legati alla quantità, perché non è che il latte sia tossico, che sia velenoso il latte, no? E quindi anche quando si toccano e dicono che hanno male allo stomaco, ma si toccano qua in basso, che in fondo è la pancia, spiegare loro quali sono gli organi a cui stare attenti e come stare attenti, così possono reagire. Kann ich erklären und daraufhin können die Leute selber besser angehen. Tu hai mai pensato di fare la scrittrice nella tua vita? Ich habe immer schon sehr gerne geschrieben. Es war immer mein Hobby. Ma devo dire che ho sempre scritto molto volentieri, era una specie di hobby per me scrivere, ma ovviamente non pensavo di arrivare a questi livelli. Però devo dire che mia sorella appunto dipinge, altri hanno l'hobby della musica, quindi anche io credevo che per me la scrittura rimanesse un hobby. Es bleibt so mein privates Hobby. Dobbiamo aspettarci un libro su un altro organo felice? Der Darm bleibt auf jeden Fall mein Organ. Ma diciamo che il mio organo in assoluto preferito è proprio l'intestino, ed è per questo anche che ho scritto sto libro, perché c'erano tante cose che volevo dire, sentivo di avere tanto da dire. Se avrò questa sensazione per un altro organo, allora può darsi. Se invece questa sensazione non ce l'avrò più, farò la carriera da medico e cercherò di diventare un buon medico. Senti di aver detto tutto sull'intestino o c'è qualcos'altro che dovrai dire in futuro? Manca nie alles, è impossibile dire tutto sull'intestino, perché l'intestino è un organo fantastico. Attenti cattivissimi, perché è arrivato Spalmer, che spalma la merda in faccia. Aiuto, arriva Spalmer, che tutti spalmerà. Perché è arrivato Spalmer, che spalma la merda in faccia. Aiuto, arriva Spalmer, che tutti spalmerà. E allora l'altro libro da mettere in valigia non è un romanzo, l'abbiamo detto, però può essere utile per qualsiasi evenienza durante quest'estate. Sorridiamo anche un po'. L'intestino felice di Julia Enders, pubblicato da Sonzogno. L'avete sentita intervistata da Adriano Palazzolo. Anche per oggi è tutto, vi ricordo che trovate sempre tutto su podcast, sia Romanzi in valigia che Il cacciatore di libri. Grazie in regia Gianmarco Ferronato, come sempre per essere aggiornati potete seguirmi su Twitter. Una buona lettura e delle buone vacanze da Alessandra Tedesco.